Hai gli occhi più verdi della Sensimiglia. Girati e guarda me, lasci una scia di peccato e vaniglia. Come da un narghilè, non so se era un trucco quella scena muta, se era un bacio vero d'un bacio di Giuda. Se stai caricando un colpo di bazooka, qua dritto nel mio corazon, pom pom. Chissà in quanti si chiedono cosa hai nella testa e cosa hai sotto i vestiti che nessuno vede. Se davvero sei la quiete dopo la tempesta, o invece sei la tempesta dopo la quiete. Poi ti ho visto le pupille attraverso gli occhiali, mi hai chiesto fanno male i tatu sulle mani. Un bacio sotto casa mi hai detto a domani, ma dopo tre minuti mi hai scritto dai sali. Sei una bandita, bandita. Se lo sapesse la tua amica che sei una bandita, bandita. Con quella faccia pulita di sfiamo il letto, sbattiamo il rossetto. Non so più neanche che ora abbiamo fatto. È l'alba del lunedì, sappiamo bene che è tutto sbagliato, ma ci piace così. Se ci vedessero qui le tue amiche, saprebbero che hai due pesi e due vite. Una collezione di facce pulite che dicono sempre di no, oh no. Sei una scatola cinese con dei bei capelli. Baby, tu sei un segno doppio come i gemelli. Sei un diamante senza i gioielli. Sei una lama senza i coltelli. Zitta come un OG. Finta quei sapone come i nosi. Livello di innocenza così così. Tu fammi entrare dentro e gridami oh sì. Sei una bandita, bandita. Se lo sapesse la tua amica che sei una bandita, bandita. Con quella faccia pulita di sfiamo il letto, sbattiamo il rossetto. Mi hai trascinato verso l'uscita. Signorita, sei una bandita. E poi da soli sembravi impazzita. Io non me l'aspettavo mica. Non sembra da come vivi la vita. Signorita, sei una bandita. Ma nel frattempo ti sei già svestita e non è ancora finita. Sei una bandita, bandita. Se lo sapesse la tua amica.